all'ombra ci vuole, almeno ci rinfreschiamo un po', hai capito? Ci rinfreschiamo un po' e tiriamo avanti così, purtroppo, il tempo scivola. Adesso si sta bene al mare, a cuore a moglio e un peso. Arrivi anche alla prossima estate e per la pressione, basta portarti appresso un manometro e la pompa e sei a posto. Ho sentito adesso. Celle in alto, racimo l'immondezza, e allora non si sa cosa bisogna fare. Vabbè, ciao Giuseppe, ci sentiamo in condizioni migliori, ma speriamo che non ci sia propagazione la prossima volta, così no, ci possiamo sentire. Che approcci al 100, ricambiati al 100 tutti e due, dai, ciao, buona serata a tutti e due, ciao ciao, quelli lì per me.